compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tanzania con Alessandro Bertante. Nome: Repubblica Unita di Tanzania. Forma di governo: Repubblica. Capitale: Dodoma. Popolazione: circa 37 milioni. Lingua: Swahili, inglese. Confini: confina a nord con Kenya e Uganda, a ovest con Ruanda, Burundi e Repubblica Democratica del Congo, e a sud con Zambia, Malawi e Mozambico. A est è bagnata dall'Oceano Indiano. Clima: la Tanzania ha un clima tropicale. Negli altipiani le temperature variano tra i 10 e i 20 gradi centigradi, rispettivamente durante le stagioni fredde e calde. La parte restante del paese presenta temperature che raramente scendono sotto i 20 gradi centigradi. Il periodo più caldo va da novembre a febbraio, mentre il periodo più freddo si verifica tra maggio e agosto. Il clima è fresco nelle regioni di alta montagna. Religione: i cristiani, cattolici e protestanti quasi a pari livelli, costituiscono ormai il 35% della popolazione, seguiti dai musulmani, 35%, e dai seguaci delle religioni tradizionali, ridotti al 30%. A Zanzibar prevalgono invece nettamente i musulmani, 99%, seguiti dai cristiani, 1%. Sono con Alessandro Bertante, che a suon di imprevisti, come si confà a un viaggio avventura fatto a 20 anni, sta per portarmi in Tanzania. Con un gruppo di amici decidemmo di andare a Zanzibar. E questo perché già dal nome ci evocava delle cose legate ai commerci, all'Oriente, all'Africa, sia nera, quindi della Tanzania, che poi invece quella che guardava verso l'India, perché lì c'è l'Oceano Indiano, e comunque Zanzibar era una città musulmana, era la capitale dei traffici arabi, eccetera, insomma una città di grande fascino, grande storia e suggestione, eccetera. Quindi noi partimmo, però partimmo come fanno i ventenni, quindi non avevamo una lira, e allora non era una meta turistica come è diventata poi, insomma, che è diventata proprio una meta anche dei viaggi last minute, eccetera, eccetera. E era una meta piuttosto avventurosa ancora. Fecero di tutto per evidenziare questo aspetto avventuroso, prosegue Alessandro, anche perché all'andata arrivarono a Nairobi e tutto il resto del viaggio dovettero farlo in autobus. Sì, avete capito bene, in autobus. Vabbè, mi ricordo che prendemmo questo Nairobi, una città pericolosissima, inquinatissima, e siamo stati tipo 6 ore. Prendemmo questo autobus, questo sgangheratissimo, che ci portò a Mombasa. Mombasa, che è una città di porto, che è ignota. E mi ricordo questo, una cosa che mi è rimasta indelebile, perché abbiamo preso la corriera proprio, quella, cioè tipo quella che porta da Milano a Mortara o a Pavia, E appena usciti dalla periferia facciamo 20 km e ci fermiamo 20 minuti perché una giraffa ci passa in mezzo alla strada. Loro non gli fregava niente come vedere una vacca, ma per noi però appena sbarcati dall'aereo fu una... questa è l'Africa. Poi arriviamo a Mombasa e c'è un tramonto più bello che abbiamo visto nella mia vita, rosso, su questo porto industriale orribile. Uno si immagina i tropici, invece era una città industriale orribile, però con un tramonto rosso a un certo punto che ci ha annichilito. Dopo un tramonto indimenticabile, come di quelli che si vedono solo in Africa, proseguiamo il viaggio, decisamente non organizzato, con Alessandro. E decidiamo allora, prima di andare in Tanzania andiamo a Lamu. Solo che volevamo fare in fretta perché non avevamo tanto tempo, avevamo solo un mese, dovevamo girare tutto, eccetera. Quindi affittiamo un aereo. Affittiamo un aereo in un posto, in una specie di campo, che ci mandano lì e c'è il pilota tutto dinoccolato che ci dice: sì, venite con noi, poche lire, mi dico $50, eccetera. Piglia una tanica benzina e fa benzina nel suo aereo, un monoelica. Saliamo su sto monoelica qua e si aprono i finestrini come sull'autobus e metti la mano fuori, è quello di Indiana Jones, tipo, Vabbè, partiamo con sto monoelica qui, andiamo, sembra di essere su un trabicolo proprio, vabbè, volava bassissimo, facciamo sto viaggio di 200-300 km, non mi ricordo, in un'oretta, un viaggio bellissimo, cioè, arriviamo alla fine e c'è una specie di campo di calcio e io faccio i miei tre amici, fra cui la mia compagna di allora, ma vorrà mica andare lì, e vedi che a terra, in questo campo di calcio, con degli scossoni proprio da cinema pazzeschi, e appena a terra noi usciamo tutti tramortiti, vediamo arrivare una torma di ragazzini che ci urlando ci viene addosso e noi colti proprio dal panico, non sappiamo proprio, in mezzo alla giungla, e in realtà facevano la gara fra di loro per chi ci portasse le borse. Paura ingiustificata, figlia solo di pregiudizi del nostro bel mondo industrializzato. Vabbè, parentesi che ignota, si esaurisce in una settimana. Ritorniamo a Mombasa e lì dobbiamo finalmente andare in Tanzania e prendiamo il super espresso rapido la corriera più veloce del mondo, insomma, secondo loro doveva impiegarci 18 ore a fare Mombasa Dar es Salaam. Iniziamo il viaggio e che poi durerà 40 ore, quindi più del doppio, ed era il super espresso rapido e dopo un chilometro inchioda per far salire, giuro, uno con una pecora che ha fatto così, in pecora in braccio, inchioda, c'erano tutti i finestrini rotti, tutti, di giorno faceva un caldo incredibile, la sera un freddo infernale, la notte si gelava perché fa freddo, e iniziamo questa epopea di 40 ore allucinante fra il Kenya e la Tanzania in cui ce ne capita di ogni, addirittura si ferma, e questo è un altro ricordo indelebile che avrò della mia vita, si ferma in mezzo alla giungla, nessuno gliene frega niente, è rotta, e cioè se succedesse adesso mi verrebbe un attacco di panico dopo un secondo, nel senso l'autobus, la corriera rotta in mezzo alla giungla, non c'è niente, non esistevano i cellulari, non c'era niente. E tipo tranquillo, piglio una chiave inglese lunga mezzo metro, va giù e inizia ad armeggiare con sto motore, bam, bam, dando delle mazzate pazzesche. Noi usciamo tutti in mezzo alla giungla in uno spiazzo e veniamo circondati da dei babbuini che non sono ostili, sono semplicemente curiosi perché non se l'aspettano, e iniziano a fare un fracasso infernale e io lì inizio a inquietarmi, perché sembra l'inizio di qualsiasi film che poi, non so, arriva qualche creatura e ci mangia tutti. Thank you. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tanzania con Alessandro Bertante. Sono con Alessandro Bertante in viaggio verso la Tanzania. È tutto molto poco organizzato, ma a sorreggerci c'è l'entusiasmo dei loro 20 anni e questo ci permette di vivere ogni imprevisto con un'energia incredibile. Abbiamo già volato su un monoelica alla Indiana Jones verso Lamu. Abbiamo visto giraffe attraversarci la strada e siamo stati per 40 ore su un pullman che sul più bello si è rotto, lasciandoci in mezzo alla giungla circondati da decine di babbuini. La scena di un film dell'orrore, si può dire, dove poteva succedere qualunque cosa. Invece no, ripartiamo e arriviamo in Tanzania, alla frontiera, che allora era ancora un paese, diciamo, era appena caduto il muro, però era un paese ancora di area socialista, nel senso... come può esserlo in Africa, però faceva parte del blocco sovietico, quindi c'era Lenin Hospital, eccetera, eccetera. Quindi la questione burocratica era molto più seria ancora della... Quindi ci facciamo 6 orette in dogana finché finisce tutto, finché non arriviamo esausti a Dar es Salaam, e da ovviamente da occidentali volgari e involgariti. Cerchiamo subito il cambio nero, perché comunque essendo un paese socialista ti davano 10 volte tanto la banca, e così c'era anche scritto nella guida, quindi non eravamo solo noi colpevoli ventenni, poverini. E mi succede il furto con meno destrezza della mia vita, perché andiamo in questo quartieraccio dove la guida ci diceva di non andare, però noi vabbè, ci portiamo solo $100, cioè al massimo ci rubano questi. Chiediamo al camioniere, ci fanno sì, ci porta in un vicolo, io gli do, lui fa give me the money, fa finta di prendere delle robe, io gli do 100 euro e lui li prende e inizia a correre e scappa nella direzione opposta. Quindi senza trucchi, tipo, prende e corre. Io rimango talmente rintronato che abbozzo un inseguimento, però vedo che si infila in un vicolo dove non era consigliabile andare e... Poi torno indietro scornato con i miei amici ancora così, con questo sguardo fisso. Poi abbiamo cambiato altre volte i soldi, ci hanno derubato quasi sempre, nel senso che ce ne davano meno, eccetera. E comunque noi ci guadagnavamo col cambio cosa, anche se ci derubavano, quindi è giusto che ci derubassero. Però così mai più. Ennesimo imprevisto che forse si poteva evitare. Ma come dice Steinbeck, il viaggio è come il matrimonio. Il metodo sicuro perché vada male è pensare di poterlo controllare. E noi continueremo a non controllarlo per godercelo fino in fondo. Noi stavamo in un hotel che costava un dollaro al giorno, il Rex Hotel, che doveva aver avuto anche un periodo in cui aveva una magnificenza, ma era tutto... Mi ricordo che entriamo in questa stanza enorme con il letto baldacchino, eccetera, senza acqua però... E con il bagno, la vasca già piena di acqua marrone. E se ci fa, se volete fate il bagno lì, faccio... Anche no, grazie. Era quindi tutto molto fatiscente, postcoloniale, una roba strana. Siamo arrivati finalmente al momento di andare a Zanzibar. E il giorno dopo andiamo a imbarcarci per Zanzibar. Ed è anche lì una cosa allucinante, perché arriviamo a sto porto qui caotico e c'è una... non so come le chiamano adesso queste barche qui. C'è una carretta del mare proprio, di legno brutto, un peschereccio vecchio, e ci caricano e iniziano a stiparci. Noi entriamo fra i primi perché comunque per i turisti, soprattutto in Tanzania, avevano un occhio di riguardo. Poi c'eravamo solo noi, non c'era nessuno. Ci caricano, poi iniziano a caricare invece tutti i tanzaniotti, non so come si chiama, tanzaniotti, sì, credo, che invece da Dar es Salaam andavano, quindi per cose loro, i locali, ecco. E però non hanno mai fine i locali, continuano, ci stipano finché non siamo praticamente aggrappati al legno, a delle cose. Ma il meglio di questa traversata deve ancora arrivare. E poi a un certo punto io devo andare in bagno e chiedo al capitano dov'è il bagno. Lui mi fa: vai, dritto. Io vado dritto, faccio con una fatica immane tutta la banave, che però non era lunghissima, ma ci ho impiegato comunque mezz'ora, e mi fa: vai, e continuo ad andare, vedo che non c'è nessun bagno, finché non arrivo alla fine della nave, che c'è una rete, la gente si sedeva lì e faceva quello che doveva fare, quindi in mezzo alla nave, in mezzo all'oceano, ecco. Per me non è che fosse proprio un problema, però immagino già che una donna aveva qualche difficoltà in più. Da donna mi sento di confermare, qualche difficoltà in più l'avrei avuta. Vabbè, invece poi arriviamo a Zanzibar ed era un'isola bellissima, proprio bellissima, perché Zanzibar è moresca, ha un'architettura arabeggiante, quindi minareti eccetera, è musulmana, però allora nel 90 non, cioè il termine musulmano non implicava nell'immaginario collettivo il pericolo, ma l'esotico, e era ancora di lì da venire tutto, cioè tutto quello che poi è venuto dopo, quindi soprattutto in quelle zone lì che poi sono diventate molto pericolose, anche se la Tanzania, devo dire, mai. chake dunia ni ya Mola Baba. Ye anajua yote dunia hii ni ya kwake. Omba Mola usilie salone, nyama za dada ukilia, rangi moswahili atalia. Baba yetu liye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusame makosa yetu vile tulimusame diwani chenja. Binadamu nasi Alfa Beta Theta Beta, binadamu nasi upendane. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tanzania con Alessandro Bertante. Approdati finalmente a Zanzibar con Alessandro Bertante, dopo aver passato ogni tipo di avventura, è giunto il momento di trovarci una sistemazione per la notte. Qualcosa che sia in linea con quanto ci è capitato fino ad ora, non sarà difficile trovarlo. Eccoci serviti. Però noi non sufficientemente paghi di questa bellezza, decidiamo di andare a vivere nell'isola di fronte, che si chiamava Prison Island, ma che era più di uno scoglio, era l'isola prigione, e che ci si poteva andare solo con dei barchini. Tra l'altro allora non ero ipocondriaco come adesso, e quindi l'assenza da qualsiasi tipo guardia medica, pronto soccorso, che non mi interessava niente, non avevo neanche farmaci dietro. Quindi ci portano con dei baracchini che di notte non vanno, quindi eravamo completamente bloccati su st'isola, ci portano dei locali, dei ragazzi di lì, e ci vengono a prendere un po' quando vogliono loro, però. Quindi ti portano lì, e lì c'è solo un baracco che vende bibite gassate che si trovano ovunque in Africa, anche quando non c'è l'acqua. Vabbè, questo è un classico. E birra. Ci portano cose e viviamo nelle celle della vecchia prigione, che le affittavano a pochissimo. E in questa isola, che aveva 40 metri di marea ogni notte, cioè è un'isola molto piccola, potrebbe essere stata grande come tre volte Piazza Duomo, ecco. E la marea si ritirava di 40 metri ogni notte, tu la notte camminavi intorno all'isola, vedevi le tane, tutti gli animali, eccetera, e uscivano dei pipistrelli erbivori giganti di mezzo metro, bellissimi, ed eravamo solo noi e altri quattro ragazzi neri che gestivano questo posto. Dormire in ex celle sull'isola prigione è il minimo, e l'immagine che sta per regalarmi Alessandro ha dell'incredibile. Davanti alle nostre casupole, perché queste erano vecchie celle, c'erano delle tartarughe giganti di un centinaio di chili da terra, che se tu ci andavi sopra e li grattavi con un pezzo di pietra, un determinato punto della cozza, come si chiama, del guscio, loro camminavano. Ovviamente come le tartarughe, quindi andavano molto piano, però ti portavano e tu stavi sopra questa tartaruga, facevi tipo così con la lavandaia, in 20 minuti facevi tipo mezzo metro, però era una cosa divertentissima. Spostarsi a bordo di tartarughe, quando ci capiterà di nuovo? Mi ricordo che giocavano a calcio alle 5 e mezza del mattino, perché per sfruttare la frescura. E a me era capitato di vederli solo una volta giocare a calcio, perché solo una volta sono andato all'ospedale, quindi ho fatto, perché pensavamo avesse la malaria mia compagna, invece era solo un'insolazione, cioè 40 di febbre. E andiamo all'ospedale alle 6 del mattino, vediamo tutti questi, dopo una notte d'inferno, tutti questi ragazzi che giocavano a pallone, io chiedo al taxista, poi alle 8 vanno tutti a casa perché fa caldo, oppure vanno a lavorare, cioè, ah, capito. Abbiamo esplorato quasi tutto della Tanzania e si può dire in qualunque situazione, dalle più semplici alle più complicate. Forse ci manca solo di incontrare dei Masai e poi possiamo dire di avere davvero vissuto l'Africa. Alessandro ci accontenta subito. Poi da lì siamo stati quanto? Non mi ricordo, 10 giorni. Siamo andati nell'Africa interna dentro, a vedere i parchi. Però quella, devo dire, la cosa forse più bella è memorabile, ma anche meno raccontabile, perché non hai a che fare con le persone. Però vidi i Masai, ecco, questo sì. Mi ricordo che vidi i Masai. I Masai sono una cosa incredibile, perché quando passano loro, a parte che è vero che sono altissime, queste tuniche arancioni, viola, eccetera, passano loro, si scostano tutti perché sono ancora considerati un rango guerriero, una tribù guerriera, con queste lunghe lance. E io l'ho visto in un mercato vicino all'entroterra di Dar es Salaam, verso il centro, insomma. Che cosa consigli ai nostri ascoltatori viaggiatori? Allora, Prison Island, andateci, dove sono stato io, perché è un'isola pazzesca. Solo per vedere la marea ne vale la pena. E vabbè, ai parchi andateci in Tanzania, perché sono fra i posti più belli del mondo. Io temo però che dai racconti che mi hanno fatto negli ultimi 10 anni persone diverse, di cui ho molta fiducia, la vecchia magia di Zanzibar, che già si stava perdendo ai tempi, sia definitivamente perduta, perché mi hanno raccontato che tutta la costa, diciamo, che non dà verso la Tanzania, ma dà che verso l'Oceano Indiano, quindi perdersi verso solo Sri Lanka, credo, a questo punto, sia stata colonizzata completamente da dei villaggi turistici, e quindi questo non inficia nulla nella bellezza, non credo proprio, però mitiga, diciamo, l'aspetto avventuroso di quello che per noi è stata un'avventura. Anche se la vecchia magia sembra essersi sbiadita col tempo e col turismo di massa, mi sento di appuntarmi sul mio taccuino i consigli di viaggio di Alessandro. Ecco, il consiglio che do io in Africa in generale è magari di uscire dalle rotte consuete. Cioè, a Malindi non ci andate e puntate magari in posti tipo Lamu, altri, adesso non so cosa siano diventati, però più sono difficili da raggiungere, più sicuramente sono belli, se volete andare al mare. Invece, se volete stare in Africa nell'interno, vabbè, è tutto talmente selvaggio, pericoloso, e temo anche adesso più pericoloso di quanto fosse allora, che i miei consigli valgono quanto valgono, insomma. Africa tutta tocca, JD Milana. La cosa stile Sochavi Sanjalo. Jeva se stile Sochavi Sanjalo. Uso tilga lanjalo. Lengua ma wespari. Uso tilga lanjalo. Lengua ma wespari. Ah! out a little spazzy. Zumba, zumba, zumba, out a little spazzy. Zumba, zumba, zumba, out a little spazzy. Zumba, zumba, zumba. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tanzania con Alessandro Bertante. Dormire su un'isola che è stata una prigione, cavalcare tartarughe per spostarsi, anche se lentamente, e vedere ragazzi giocare alle 5 del mattino a calcio sulla spiaggia. È solo una parte del viaggio che Alessandro Bertante ci ha fatto fare oggi. I colori visti fino ad ora sono quelli degli imprevisti che hanno reso davvero variopinta la nostra vacanza. Il quadro è quasi completo. Manca solo di dare una pennellata coi colori della natura. Rosso, il rosso del cielo. Era una cosa incredibile. C'erano dei tramonti... Questa cosa dell'unicità dell'Africa è vera, però. Perché sono colori, sensazioni olfattive, eccetera, che poi non vedi mai più. Non vedi mai più, non vedi in Sud America, non vedi in Asia, non... tanto meno in Europa, insomma. C'è qualcosa di profondamente arcaico, di forte, di distruggente in Africa che non, poi no, io non ho più rivisto, ecco. Poi però non voglio essere assolutista, perché avevo anche 20 anni, quindi è molto facile a quell'età lì farsi prendere dallo struggimento, ecco, infatti. E, però sì... quelle atmosfere io non le ho più viste, anche era molto selvaggia, anche molto selvaggia, e nonostante i viaggiatori di una certa età che incontravo durante il percorso, e in un percorso in autobus ne incontri tanti, perché eravamo sempre in viaggio, non arrivavamo mai da nessuna parte, ci raccontassero allora che già il meglio era finito, come sempre, come in ogni luogo, e io penso che se ci fossi andato negli anni 60 ti avrebbero detto la stessa cosa, però nonostante ti dicessero quello, negli anni nel 90 perlomeno grosse industrie del turismo non c'erano ancora, ecco. Quindi nonostante tu facessi un viaggio, diciamo, sicuro nei termini consueti, insomma, ti può sempre capitare qualcosa ovunque tu vada, però sicuro, perché non c'erano guerre civili, non c'era, era comunque un viaggio avventuroso. E l'avventura si protrae anche in cucina. Ho mangiato delle cose incredibili, non me le ricordo neanche più. Ho mangiato lo squalo, finalmente, perché sai, siamo stati tanto sulla costa. Delle frittelle... interne invece, nell'interno c'erano dei venditori ambulanti che vendevano delle frittelle che possono assomigliare un po' alla roba etiope tipo samosa, eccetera. Frittelle di carne però erano, non so di quale animale, temo fosse qualche animale strano, perché le frittelle come la polpetta, se ci metti un po' quello che c'hai, quindi... ed erano gustosissime, però a me non fecero niente, al mio amico gli diedero un'intossicazione alimentare che secondo me se la ricorda ancora adesso. Però ad esempio non ho mai avuto problemi, molti di più in Messico. In Messico dove mangi, cioè... Beh, però allora, sulla costa opulenta e turistica abbiamo mangiato anche delle cose incredibili di bontà, tipo granchi grosse come sto tavolo, cioè la granseola vera l'ho vista proprio così. Dopo aver mangiato lo squalo, aver scampato un'intossicazione alimentare e aver visto granchi grossi come tavoli, chiedo ad Alessandro di parlarmi dei profumi. A Zanzibar l'odore particolare che c'è, ma soprattutto a Zanzibar sono le spezie, perché le importano dall'India. E quindi è una cosa che magari non ti aspetti dall'Africa. Sì, Zanzibar va detto che è un'Africa molto particolare, perché guarda molto al mondo, all'Oceano Indiano, insomma, e quindi mette gli odori dell'Africa sono completamente diversi, gli odori dell'interno. Quando si passa dal mare con qualsiasi trabicolo, che sia un autobus o una macchina in affitto, all'entroterra cambia proprio completamente tutto a livello olfattivo, perché lì poi c'è la giungla, e la giungla è l'odore della giungla indescrivibile, cioè non... I nostri boschi degli Appennini, insomma, non hanno lo stesso odore, ecco. E quindi quello è un ricordo del cambio dall'oceano all'entroterra, che è repentino, non è mai dolce o comunque progressivo, è di botto, boom. Questo avviene anche, credo, in Sri Lanka, in altri posti che hanno questo mare con la giungla subito lì. Però non ci sono stato qua, almeno in Sri Lanka no. Il viaggio avventuroso di Alessandro Bertante è arrivato alla sua conclusione, pieno di sorprese e di imprevisti. Passiamo ai libri che l'hanno accompagnato in questa parte d'Africa. Scoprire che di Africa nelle sue letture c'era ben poco non mi stupisce. Se del resto niente è stato studiato prima, perché farlo durante? Mi ricordo che lessi allora i fratelli Karamazov a Zanzibar. Cioè, i fratelli Karamazov sicuramente, perché mi ricordo il doppio volume. E quindi il doppio volume. Poi credo Il lamento di Portnoy di Roth, perché mi era rimasto impresso alcune cose che mi ricordasse. Però sì, avevo diversi libri, però era il secondo anno di lettere, quindi leggevo cose completamente... Ah, sì! Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Me lo ricordo come se fosse adesso, che ce l'avevo, sì. Quindi, come dire, di Africa pochissima. Giusto le memorie di Adriano, che arriva in Terra Santa a un certo punto. Ed è proprio con una frase della Yourcenar che mi voglio salutare con Alessandro. Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su se stessi. La mia prima patria sono stati i libri. Da giugno Alessandro Bertante è in libreria con La Magnifica Orda, edito da Il Saggiatore.